E da questo preciso istante cambi console, anzi l'ultimo cambio di questa speciale note. Joshua Hiroshi e alla voce MC Sunny. Sì. Ok. Il suono si chiama Joshua Hiroshi. Sulle mani Dorian Gray. Joshua Hiroshi. L'ultimo cambio in console della notte. Sei pronto Dorian Gray? Baptism. fermare Joshua. Salutando gli amici di Alessandria. E dove sono le mani di Dorian Gray? Lui è musica, Joshua Rossi. Le mani al cielo, Dorian Gray! Rock this. piano piano Joshua Hiroshi. Dodio e Green. Siamo pronti, Joshua. Notte un'altra pagina di storia è stata scritta, Dorian Gray. Voglio vedere tutte le mani al cielo per ringraziare Joshua Hiroshi. Questo è il nostro sabato notte, Dorian Gray. Verso la fine, Joshua Hiroshi. I have a dream. Sei pronto, Joshua? Un saluto agli amici di Sala Vagante e Fornuovo. Ciao! The kick will be right in your face. Crank your sounds are in your ears. So turn around and show some fear. All the noise is hot as hell. I'll give you some raging pain. Voices deep down in your head. The music makes you go insane. Compleanno Niki, verso la fine con la musica di Joshua Hiroshi. low can you go? Ci siamo ancora, Dorian Gray, in alto le mani. Verso la fine con la musica di Joshua Rossi. Sali Joshua! Joshua Rossi! Dorian Gray. grande applauso a Joshua Hiroshi, Dorian Gray. Verso la fine con la musica di Joshua. Servirebbero le mani al cielo, Dorian Gray. Le mani al cielo, Dorian Gray. Non è vietato saltare, Dorian Gray. Piano piano, sempre più su. Salutando gli amici di Roma questa notte, Dorian Gray. Gli amici di Zamora, gli amici di Milano. Con le mani, Dorian Gray. Joshua Hiroshi. Un saluto speciale e un augurio frateloso ad Ale. Iniziate! Veramente bello Dorian Gray, facciamoci un applauso per tutti noi. L'appuntamento è rinnovato a sabato 14 aprile e a sabato 31 aprile. Grazie a tutti voi, un applauso a Joshua Roshi e MC Sony. Adios.